Before you hear what Sarah and Lorenzo will choose after the starter, listen to this new language. And as usual, ascolti l'italiano, l'inglese, di nuovo l'italiano e poi ripeta. Ordinare. To order. Ordinare. Vogliono ordinare? Do you want to order? Vogliono ordinare? Ancora. Yet. Ancora. Pronti? Ready. Pronti? Ordiniamo. We order. Ordiniamo. Penne all'arrabbiata. Pasta. Literally in the angry style. Penne all'arrabbiata. Le piace? Do you like or you like? Le piace? Il cibo. The food. Il cibo. Piccante. Spicy. Piccante. Now test yourself. After you hear the English, say the Italian equivalent in the pause, then repeat the correct answer in the second pause. To order. Ordinare. Do you want to order? Vogliono ordinare? Yet. Ancora. Ready. Pronti. We order. Ordiniamo. Pasta in the angry style. Pasta all'arrabbiata. Do you like or you like? Le piace? The food. Il cibo. Spicy. Piccante. And now, if you're confident with the new language, here's the next dialogue.